11, 11, arrivato. Ehi, ehi. È un casino, esatto, pure. Non so, pratica che da girare meno a me. Mi sono da tesoro, fai via l'Italia, che se cos'è militare. Se tu corri, ti pure da volte mi incasinate, pure. E con sovretta niente non si comprende nulla. Ah, e poi si incontrai, guarda la cazzo curva. E noi stiamo occupati di passare, capito? Noi che mettiamo il permesso. Ma macchina su destra manca perché già passa su giusto giusto là. A volte cazzonavo per spostare pure. Ma quella fascia a cosa gli serve il rimorchio? Allora quella fascia un giorno si è sollevata la centina da lì e ne saltava fuori, capito? Quindi come se ne saltava c'è entrata là dentro del suo piantone di Papas. Non so che se siete in casa, che se si sta cagando qualcosa. Ti ha fatto applaudire, sai, questo muletto mi ti ha fatto rassollevare, appunto, un po' di legno, potete sollevare, se non ci deve fare questo muletto. Ci devo gettare, ci devo gettare una faccia per sicurezza, ma non riuscivo, capito? Dopo sicurezza devo gettare questa faccia. Magari fa fare qualche sistema, in modo che la gente solleva, non deve più sollevare. Perché anche questa poi alla fine che si sollevava e non chiudevano gli sportelloni, era chiusa male. Ma vedi che ti ho fatto questa saetta, sei entro e mi ha fatto un punto di saldatura questo cazzo lì. Da ma che posso levare, tanto non se ne serve dal nostro, sì, ciò no. Vero? Questo che vedi io sono. Ma cosa per ria, da penso più è bene. Gli sportelloni non li ho toccati, ma penso di sì. Ma se no se lo provassi da Giovanni, vedete sarà bella. Poi posso superare perché tu vieni vedo, ti ho saltato la saetta. E butta che ho messo in volta con la bianca, perché da fuoco si piace. Quindi più prima all'accordo e piccavo caffè che dopo bello per il cocco, un serrato bar. Sempre molto frutto, tutta di. No, ma non lo viene, quindi dire se ti ho fatto un caffè, come ti viene dentro il poverno? Boh, no, vedi che all'entraia. Poi ti ha fatto viata in macchina, molto da un bella tipa questa, fatta bella roba di vista, se è bello buono. Ma che è chi è? All'accordo, avremmo il dicendo che cazzo se tenne a palmare. La prima, non so se come dire, male. Ebbè, per il re. Ciao Lu, buonasera. Stai uscendo male, sei tutta scarica, non lo so, manco chi sei, boh, c'è uno che sta uscendo tutta scarica, non lo so. Ma a me già mi senti bene, sì. Sì, dai, sono in ascolto che sta riparando un telefono, sto chiudendo. Ehi, già sono qua. Fabrizio, tu sei? No, segnale non è il suo, è molto più basso. Vabbè dai, anch'io sono in ascolto, già in troppo. Ok. Ehi, a dopo, ciao, tanto sono a casa della mamma, già ho sistemato un televisore di un amico, li avevo già sistemato. Adesso l'ho sistemato, sto chiamando e non mi risponde. Vabbè, a dopo, ciao. Ehi, a dopo. Thank you. minuti, come mai? Io non ho scelto per niente. Tutto zero, va bene, no, niente, tutto nulla. Allora è roba di... tu dici proprio di calore, dai, siamo vicino alla notizia, non è veramente. Tutto bene, già? Sì, grazie a Dio, sì, fra. E tu? Anch'io già sto bene. Più freddo, oggi, ma adesso che è stato a casa, adesso mi scaldo un po'. Queste sono giornate un po' rigide, dai. Anche io quando c'è da portare il cane mi devo coprire bene. C'è il giubbotto che mi arriva il colletto quasi a coprirmi, già va bene, bello caldo. L'unica cosa che c'è è che mi copre troppo il cappuccio. Se mi copre tutta la faccia, sembra malocchio. E anch'io ho la felpa quella in file che mi arriva, mi copre bene il corpo, vai. E sì, questa mattina mi mettevo anche il cappuccio perché avevo freddo, specialmente alle orecchie. C'era un po' di vento, era la stessa tramontana, anche se non veniva da nord, sicuramente era in rotazione per questo vento, era freddo. A me mi prende soprattutto la testa, da quando mi ho tagliato i capelli, poi ci ho fatto una gazzata per mettere troppo curti. Mi soffro molto di freddo alla testa, quindi mi devo mettere il cappuccio, quando porto il cane, se non metto il cappuccio mi piccheggia per più freddo. No, io ritengo quasi a zero, va. Anzi a volte lo faccio anche con la lametta, non sempre, però se no ti taglio mezzo millimetro, va, il minimo della macchinetta. Ma eri tu in manda laterale poco fa? Eia, stavo un po' qua. Ah, ok, infatti adesso c'è la tragetta, pensavo che fosse la tragetta. No, stavo provando io, stavo provando una parada. Caricando stavi? Che cosa c'hai? Che apparato hai? RM Italy. Grosso? Diciamo che fa da 3, sì. 600? Cioè 600 in banda? Finita. Ciao fra, buonasera, ma non è un controllo, ciao Gianni. Sarei fischiando, fra, ciao. Sto fischiando? Ora. Sto fischiando? Adesso no. Sto provando. Ok. Non sento niente. Ma sei arrivato? No, questo è l'altro, il DAC, io sto provando con l'amplificatore. E queste a valvole, quindi magari qualche rientro c'è. Anche adesso sto fischiando. No, adesso va bene, quando si entra con solo sto fischiando. Eia. Gappa. Dammi un video Gianni, che me lo compro anch'io un altro di quei lineari, se è vero che da 300 watt in AM e 600 in SSB, mandami un video, me lo sto ordinando subito, lo lascio fisso su una radio, perché è molto strano quello che hai detto, visto che questo ne dà 700 in banda laterale, non capisco come faccia ancora da 600, vabbè. Mandami un video che me lo compro subito con i miei, perché per il prezzo che è interessante, 600 watt in SSB, che aspetta, è ottimo. Quello se ne dà 400 in SSB anche troppo già, ma te lo dico con molta sincerità, non so con cosa l'hai provato tu, non fare come abbiamo fatto noi con una persona che con un wattmetro era una cosa, poi l'abbiamo provato con un altro wattmetro, di quelli wattmetri però con la W maiuscola, e ce ne mancavano 200 di watt. Gappa. Comunque se vuoi mandami un video, vabbè non sto scherzando, ma lo compro subito, immediatamente, e lo uso per altri scopi. E me fra? Gianni non ti prende, ciao fra, tutto ok? Sì, tutto ok. Tutto cappa, ma stavo... ho commutato al DAC, lo sto usando perché da tanto non lo usavo, infatti sto andando col DAC e io sto andando con seconda potenza, quindi siamo intorno ai 250, quasi 300 watt, 280 watt modulati, dai, seconda marcia però. Questo è un LA1000. Un LA1000, sempre casa RM Italy. Lo volevo provare col DAC perché ho detto con le valvole ancora non l'ho provato. Ma sembra che vada bene, dai. Avanti, Beck. Sei tutto sciatto, Claudio. Abbassa qualcosa, perché io ti ascolto male. Non so se ti ascolta bene Gianni. Gianni, avanti. Gianni. Gianni sta facendo il video, così me lo manda e lo copro subito questo lineare, questo 505. Avanti, fra, riprendi. Anch'io sto parlando del mio, vedi? Certo, qua me ne segna 400 modulati, anche 450, ma invece sullo strumento ne segna 200, due, massimo 250 sull'HP1000. Ma non, cioè molta gente è convinta, ma io poi vabbè, sembro pesante quando parlo, ma io quando parlo dico la verità perché documento le cose. Io ho un LA1000 che è il doppio di quello che ha Gianni, sia come prestazioni, come tutto. Ed è un 600 watt in AM, perché li dà 600 watt in AM, li dà, ok, ma non dà 1200 watt in SSB, assolutamente, in SSB in HF, perché questo è un 0,30 con una potenza un pochino più elevata, però in SSB siamo intorno agli 800, ma siamo lì, capito? Siamo lì. Però è un altro tipo di amplificatore, non è che si raddoppia nel modo più assoluto, assolutamente nel modo più assoluto. E io ho un B300P, ed è 300 watt in AM, che non li dà nella 220, e in SSB ne dà, diciamo, poco più di 300, quasi 400. Quindi a volte quando diciamo le cose dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo dicendo, tutto qua, niente di particolare. Io la bassa appena perché io ti ascolto male. No, sei saturo, stacca amplificatore, non lo so, sei saturo, ti ascolto a malapena. Io ti ascolto sempre saturo, non so come ti ascolti Franco, ma io ti ascolto saturo. Ma io non lo sento oggi, il QRM è fortissimo. Io ti ascolto saturo. Claudio, capito? No, ti ascolto sempre chatto. È perfetto. Cos'hai detto lui da te? Lo senti meglio? Forse perché è più lontano, non lo so. Qua era perfetto in tutti i passaggi. Io a voi vi ascolto bene, sono col DAC, io a voi vi ascolto benissimo alla grande, a lui lo sento chatto. E tu Fra non lo senti? No, perché ho un QRM fortissimo, se lo porti anche appresso tu, figurati che c'hai un segnalone, ti porti appresso anche questo cavo del QRM, sicuramente sono le pompe di calore accese qua, attaccate all'antenna. Ah, forse per quello, non lo so. Luca, mi ascolti bene, sì? Sì. Ok, c'era Gianni, è sparito. Gianni. Intanto saluto a Luca, ciao Luca, sono Franco. Ciao Fra. Mi ascoltavi. Ascolta la grande. Gianni invece è andato a farmi il video del lineare. Vabbè. È bello. C'è nessun'altro? No, io sono entrato adesso e ho sentito a Gianni con Franco. Sì, anch'io sono entrato adesso, Ho sentito a Gianni in banda laterale che stava facendo delle prove. Poi l'ho chiamato, dai. Gappa, gappa. Quanto ti sta arrivando, Fra? A me? Ehi, allora. Sì, ripeto, sento molto male oggi, perché si porta appresso tutto il QRM, che è altissimo. Sì, sul più del 30, quindi 9,20 da abbondanza. Ehi, va bene. No, sono andato al DAC, giusto per far andare, perché di solito uso sempre 574 la Midland, dell'Inuit, l'Intec, il Pony. Adesso oggi ho detto, esce, facciamo andare il DAC, così scalda e manda un po' di calore. E anche io accendo sotto il valvolare, mi farà stufetta. Allora, almeno va bene, dai. Ehi, quel, come si chiama, quel Gemetronic anni 60, cos'è, 70 blu. Ascolta, guarda il segnale, qua sono in seconda marcia, là, circa 300 watt modulati, a watt metto 300 watt. Te lo metto, ti aumento la marcia a vedere se aumenta qualcosa, ti aumento di una marcia solo. Guarda a vedere se è aumentato qualcosa, una marcia in più. Stai per arrivare al 3 del 30, appena aumentato, ma poca roba perché si è già alto, come segnale. Ti dovrei attenuare magari, riesco a vederlo meglio se vuoi. No, gli ho dato un'altra marcia in più, guarda, ancora, un'altra. E questo quando scatta la marcia scatta anche il segnale, però non è che scatta così. Guarda a vedere. Sì, sul 3 del 30. Va bene, dai, lo rimettiamo com'era, seconda. Aspetta, faccio una prova in banda laterale a vedere cosa... Ma per fare la prova in banda laterale, mantieni la cordatura che hai fatto in AM? Beh, sicuramente sì, se l'impianto è a posto sì. Dico no, perché tu quando fai il controllo, dai, il settaggio, porti la lancetta a fondo scala, fa la taratura, dai, e poi passi in watt. Quando fai la taratura in AM vale anche per l'USB, per la banda? Sì, prova a fischiare a vedere se la taratura è rimasta, ma dovrebbe essere uguale. Perché arrivando più watt dovrebbe cambiare la taratura. Prova a vedere. A me è cambiato qualcosa? Sui 300 di più non sale. Quindi un centinaio di watt in più mi dà di differenza dall'AM alla banda laterale, però lasciando sempre la taratura uguale. Quella è la differenza, non è che raddoppiano. Se te ne dà 200 in AM, per dire, in SSB te ne può dare 350, una cosa del genere, ma non è che da 300 vai a 600, o come il mio da 600 va a 1200, magari avesse fatto così, 250 watt in più da in banda laterale, non di più, capito? Ma è normale, tutti gli amplificatori sono così, soprattutto quelli transistorizzati. Il conto è questo, che l'avevo abbassato di potenza, quindi per non rovinarmi la radio, là, preferisco uscire con qualche centinaio di watt in meno, magari con 100 watt in meno, però mantenere una bella modulazione. No, questo non è un problema, questo mio, anche se sta marcia, non cambia la modulazione, capito? Non cambia assolutamente. Vabbè, io ho tutti i baracchini vintage, quindi hanno tutti il massimo, c'è 6 watt, però anche con 6 watt non cambia assolutamente. Va bene così. Va bene, dai, bello che qua il... sta già scaldando le valvole del DAC, quindi già va bene. No, questo usciva con una decina di watt, quindi l'ho portato a 4 e mezzo, diciamo, 4 e mezzo, ed è, diciamo, la compromesso migliore. Eia, no, già va bene. Avanti Gianni, tu sei. Eia, poi adesso sta tutto quanto, qui si hanno fatto così, queste cose. Lo teniamo liscio e va bene così. No, oh, perché è liscio? Perché lo stai tenendo liscio? Perché ogni volta sono discussioni su cose, io lo dico. Va bene così, dai, lo tengo liscio. Vabbè, magari, cioè io ho fatto un rapporto, se c'è 300 in AM dovrebbe uscire sulle 500-600 ore in banda laterale. No, già, non ti devi offendere, per carità, siamo qua per commentare, te lo dico perché anche il mio è così, magari fosse così, ma non solo per il tuo, ma anche per il mio, sarei più felice del mondo, perché io lo metterei subito in HF, metterei veramente da parte quello a valvole, ma non è così già, così, guarda, il mio in sesta marcia da intorno ai 600-620 watt in AM, il massimo che dà, ed è quello che c'è scritto sul manuale. In banda laterale ne dà 200-250 in più, ma proprio alla grande, grande, quindi sono 850, tenendo conto l'amplificatore che è. Il tuo magari, guarda, il B300P che è un po' inferiore a quello, quindi dovrebbe essere 300 watt in AM e 600 in banda laterale. In AM ne dà 220-230, secondo i watt che l'ho 250, quindi mancano già 50 watt, mentre il tuo te li dà tutti. In SSB l'ho provato, che dovrebbero essere 600, stando al calcolo tuo, ma ne dà poco più di 350-370, top. Ed è nuovo, capito? Quindi non ti devi offendere. Stiamo appunto commentandoci le cose che abbiamo, assolutamente. Magari, ti ripeto, ma io sarei il più felice del mondo perché lo metterei subito in HF questo amplificatore, ma non è così già. No, ma io non mi sono offeso, mi sono incazzato perché mi ha bloccato il costo. Il rotto, provato, me l'ha bloccato tutto. In banda laterale. Sino a ieri mi segnava così sulle 500. Però era al minimo della potenza l'apparecchio, quindi ho calcolato mettendolo al massimo, dovrebbe dare di più. Era il power dell'apparecchio, era al minimo tutto. Nella data fa 500, l'ho visto ieri, non è che piace toccare. Diciamo che adesso te lo volevo far vedere, però mi si è bloccato la vana. Adesso quello l'ho messo in AM e si è ripreso. Adesso sempre se riprende te lo faccio vedere, io proprio l'ho contattato ieri. Come dicevi ieri che a 300 non ci arrivava, questo 300 ci arriva, ho fatto il filmato, te lo faccio vedere. Sì, mi ha detto anche Massimiliano, non lo conosco io, per quello ti ho detto, non sto scherzando. Se veramente c'ha 600 watt in banda laterale, io quello lo uso solo in banda laterale, capito? Lo attacco all'HF, se è 0,30, lo attacco all'HF e lo tengo solo in banda laterale. Così questo lo stacco, capito? Lo stacco, perché a me interessa la banda laterale, non la M, a me frega niente la M. Se è così, perché per il prezzo che costa posso tranquillamente affrontare quella spesa lì e metterne uno solo esclusivamente in banda laterale, capito? Perché questo è una cosa diversa. Vabbè, secondo che scala l'hai messo? Se non l'hai messo in scala 1000, che l'hai lasciato in scala normale, è chiaro che te lo blocca, è normalissimo. E ho fatto il passaggio da 10 a 100 invece che 1000 e me l'ha bloccato. E non stava funzionando l'ago, questo non si muove proprio. Adesso l'ho messo in AM e sta andando, perché lo so, quando la 10 in AM, sta parecchio al massimo, eccetera, lo so. Magari ti ha piegato appena appena la lancetta, capito? Comunque non fa niente, già si riprende, dai. Va bene, ok. Allora, il cambio per Franco, così è il tuo, Frammi, la stessa cosa. C'è il B300P uguale a quello che ho io, il P però io ho, quell'ultimo che hanno fatto, è così. Oh, è buono, in AM, 200 va, 220, anche 250, va bene. Però il banda laterale sale a 350, 360, non di più, capito? Con questi baracchini, con i baracchini vintage, col DAC che c'ha l'SSB e col 574, capito? Che magari non hanno molta spinta, se fosse stato HF l'avrei usato col K, allora avrei visto esattamente quanto dà. Avanti Fra, ditemi se sentite sempre qualche rumore, non mi offendo, che sto provando appunto il DAC con un amplificatore per vedere se c'ha problemi, se lo regge bene, ma sembra di sì. Adesso ho fatto l'iste DAC. Il DAC, il DAC c'ha la regolazione regolabile, le sto dando esattamente a wattimetro 7 watt, 8 watt modulati. Ma non si attacca? Certo sono attaccato in seconda marcia, non si sente già la radio, non cambia. E il bello è questo, capito? A me piacciono questi amplificatori. 8 watt, perché questo arriva sino a 15 watt, 15-20 watt, non è che c'ha, sino a 15-20 watt glieli puoi dare. Io ne sto dando 8, posso anche aumentare, top. 10 watt d'ingresso, guarda, ha cambiato qualcosa, non cambia niente. A me quando io l'ho preso mi ha detto, quale vuoi, quello con 10 watt Come questo, da 20 watt, è sbagliato già, perché può capitare, c'è un baracchino che dà di più, vedi, avreste avuto il massimo della potenza, ad esempio col Galaxy, che già c'ha watt, anziché danne 3, ne avreste dato 10, il lineare riceve bene e non avreste avuto il problema che hai, che ti porta via un po' di radio, capito? No, io l'ho preso così. Questo è così, 20 watt di ingresso, io ne sto dando 10 adesso. Ma te ha cambiato la radio, fa, o sempre uguale? No, non perdi nulla, non perdi nulla, sempre ottima, un bel apparecchio sicuramente. No, io sto usando il B507 o Flan. Ah, 507, sì, l'ho avuto, sì, bell'amplificatore anche quello. Te lo mando, Fra, non ho problemi, è un amplificatore nuovo che ho da poco, è un LA1000 praticamente. Dovrebbe essere un 1000 watt, ma non è un 1000 watt. Meno male più assoluto, no, non ci arriva a 1000, neanche in SSB, capito? Avanti, ma c'era anche Luca. Luca, ci sei? Fra, dimmi. Ho passato, Fra. Sì, lei, siamo vicini. Ehi, volevo fare una prova, Fra, sono sicuro. Vedo una portante, che c'è qualcuno che sta entrando. No, c'è la portante. Boh. Mi va bene, qui è piccolissima, però non so se voi la ricevete. Ehi, già la sentendo. E allora, Fra, come l'è passato questo fine anno? Beh, il giorno di Natale stavo lavorando, vabbè, anche se il giorno di Natale fortunatamente hanno chiuso tutto, sennò sarei dovuto essere presente al lavoro, anche Natale, Santo Stefano e tutto, dai. Invece poi è andata bene, che hanno messo dei bus sostitutivi, i treni li hanno tenuti fermi, giustamente, dai, che troppe spese, se no. Quindi tutto bene, dai, sono rimasto in famiglia, prima da una parte e poi dall'altra, insomma, con i parenti stretti, i genitori e basta. Sì, beh, sul capodanno l'ho passato insieme alla mia compagna e niente, ti ha dato bene lo stesso. Quindi sei accasato, tra virgolette, dai. Accasato no, io ho la casa mia, e venuta lei qua. Lei nel senso che ti sei chiamato, ma da molto? Ci sono da quest'estate. Ero rimasto un po' indietro allora, io la... Ah, va bene, già, sono contento per te. Sì, che ti dura, vediamo un po' come va. Sì, è già qualcosa, dai. Importante che si muova qualcosa. Claudio di Muros, rilasciatelo voi che io non lo sento oggi. Dov'è Claudio? C'era, parlava con Claudio, ma io non lo sentivo. Quando? Poco fa parlava con Claudio, un certo Claudio, io ho dato per scontato che fosse quello di Muros. Ah, forse Claudio sarà tappato il fronte. Può essere, perché ti ha rilanciato qualche volta e non hai ripreso, quindi sicuramente si è spostato. Sì, sono stato a farmi stupare. Tu quando fai la prova in mano laterale, mantieni la taratura che hai fatto, diciamo, con l'ago in AM? Oppure la fai fischiando, per esempio, la taratura in banda laterale, fischiando e mantieni l'ago a fondo scala e poi provi base? Io le faccio tutte e due. Ho provato sia a mantenerla che farla, ma farla è un po' difficile, perché l'ago va e viene. Ci vuole un fischio fisso, dai, un rumore fisso. Però per regola come si fa? In AM e poi si sposta in banda oppure va fatta in banda anche? Io penso che va fatta sia in AM che in banda, che sono due frequenze diverse, con stazionari diverse, tutto qua, potenza diversa. Quello infatti, io non sono sicuro però, in genere l'ho fatta sempre in AM e poi mi spostavo. Io non sono molto amante della banda laterale, perché non mi piace questa voce papillina che si sente. Non sono molto amante, mi piace più la voce chiara come c'è qua in FM, la voce la nostra. Invece la si sente un po', anche se sei chiarificata, si sente un po' strana. Ma me la tira abbiamo tanto. Vabbè, perché noi abbiamo, non dico giocato, ma quasi, dai, io penso con una radio con HF che ha il massimo del, riesce a centrare la cuffia al massimo. noi abbiamo questa monopolina piccolina che qui va da una parte all'altra e non riesce a clarificare bene magari, però alla lunga distanza è meglio sempre la banda laterale. Anche la M, gli ho fatto dei bei collegamenti, la M, ho fatto un collegamento al quadrato una volta con l'antenna Sigma DX in vetro resina, un amplificatore da 30 watt che avevo vinto da Torino Kawasaki che aveva fatto la lotteria dei CD, io avevo vinto l'amplificatore da 30 watt, ho usato quello lì, reggae in quinto e l'amplificatore da 30 watt. Sono arrivato in Inghilterra, no, anche io ce ne facevo quando avevo, mi sembra come si chiama, la frusta nera, quell'antenna bella caricata, poi va ben messa, centro capotta, rendeva benissimo, avevo un B150 mi sembra come lineare, niente di che, però qualche DX lo facevo anch'io dalla macchina. Ma io quelli della DSG non li ho mai potuti vedere perché facevano distorsi, ne prendevo più il 747 della CTE che non distorci più, non distorcevano nulla, tutti i mani a mostre, a meno che tu gli dai più watt di quelli che ti richiedono, devi dare 5 watt, con 5 watt fa la grana. Sì, anche con qualcosina in meno, perdi qualche watt invece, non so, di 150, che poi non te ne dava, di 100, magari te ne dava un'ottantina, però sei sicuro che ci va bene. E vogliono un po' regolati, tarati. Claudio, ci sei? No, negativo, riprendi già. Sto uscendo, sì. Sì, scusa, mi stavo tarando appunto. Parla parecchio. Guarda adesso come sto andando. Sta adesso. Però stai già perdendo il radio, stai già saturando. Ora. Sì, il segnale è forte, però la radio ha aperto parecchio. Guarda adesso, 1, 2, 3, così è, diciamo, la temperatura giusta. Dovrebbe essere tarato bene adesso. Ha migliorato parecchio. Si sente ancora qualcosina, però nettamente migliorata la radio. Guarda quando migliora adesso, guarda, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Così sto uscendo con 30, con 30. Con 30 di che cosa? Dell'apparato oppure di, dell'Alfa Lima? 30 per dire 300. Ah. Oh, yeah. Ma va, è chiaro. Sì, sì, va bene, va bene. Rispetto a prima va meglio. Considerando che siamo vicini, poi se aumento il power, questo qui è tutto chiuso il power, se io aumento il power, spiegate un po' di tempo, no, non aumentare troppo, sennò vai a perdere la radio, capito? Se la mangia, diventi saturo, meglio un po' più basso. Invece prova a attenuarmi a me, per esempio, portami a un segnale di 9, già. Ti lascio la portante muta, dai. Sono a 9? Ci sono a 9? 1, 2, 3? Già. Mi stavo mettendo gli occhiali, però, ma... Fermi la portata. Vedi un po'. Guarda anche i picchi, se sono positivi. Adesso sei a 9, vai. Guarda adesso quanto è sceso. 8. Quanto? 8. Guarda adesso sono sceso di un'altra tacca. Sì, sei quasi 7, dai. 7 e mezzo. Adesso è in terza. Così è 7. Così è seconda. E i picchi sono sempre buoni. Sempre buoni, anzi c'è più picchi in seconda che ne sei a 3. È così in prima. Non so quanti ne sei in... un'ottantina con forse 90 di picco, però ripeto, adesso vorrebbe tarato di nuovo. Così sei in mezzo con i picchi più forti che hai, più abbassi i picchi sono alti. Da quanto arriva il picco? Sei in mezzo. Di picco quanto sale? Per esempio da 6 a 9 ci sale, no? No, non ti ho capito cosa vuoi dire. Io l'ho messo a 9, poi è salito a 6, e poi sì, da 6 a 9, sì. Quindi la 6 di modulazione arriva a 9, quindi buono, dai, anche in prima marcia come adesso. K. E la radio non perde, cioè, non è migliorata per niente, è sempre rimasta buona. Sì, sempre buona, ma io so che c'è una bobina da regolare all'interno del lineare, lo faccio anche Alessio, mi ricordo, regolavo queste bobine e ti facevo uscire bene il radio, capito? Dipende sempre da come lo regoli, capito? Perché devi regolare quella parte che non usi, c'è poco da fare. Io adesso qua sono a 20 watt, guarda come sto uscendo di radio. È al limite, sì, capito? Si sente già che se la sta mangiando la radio. Però comprensibilissima ancora, Mentre invece mettendo al massimo e a 30, adesso come andrà? Così 30. Adesso proprio se parli piano addirittura non si capisce. Perché proprio se la mangia la radio. Avanti 30. Avanti Nicola, buonasera. Stavo mettendo gli occhiali per vedere. Sì, è Santiago di 7, la radio di 4. Santiago 7, radio 4. Kappa, Stefano Domino, là. Anche la radio più fuori. Kappa. Ma chi è? Lupo Grigio? Ehi, a fra. Me lo copre il QRM, c'è questo QRM altissimo oggi. No, non riesce a passare. Salutamelo, dai. E tanto mi sta chiamando al telefono. Allora salutamelo al telefono. Chiara, chiara. Davvero. Luca. Io sono da QRM. No, tu no. Però è forse oggi ce l'ho fortissimo. Tu non ne hai lui, no? No, negativo. Per intanto c'ho questo rumore brutto, ogni tanto, questo è fastidioso, anche quando vanno a modulare. No, io ho, io ho queste pompe di calore attaccate, quindi. Sono motori elettrici, me li porto in antenna, dai. Sicuramente ce l'ha attaccato, perché se fosse stato distante, là, no? Attaccata sarà 40 centimetri, perfetto, forse anche di meno. Molto poi gliela attacco sopra. Provolta! Io mi sposto diciamo a sinistra, diciamo, dalla mia finestra. Lei ce l'ha a destra della sua, quindi praticamente quasi si toccano. Però per adesso va bene così, dai. Adesso gli infilo un bastone dentro la ventola. Quindi scalda pure anche. Dai, che sono con le prese con un telefono. Sì, la cosa sta cambiando, mi spieghi roba così. Si è cambiato, solo che il padrone non si ricorda la password del telefono, già facciamo a sbloccarlo. Tu penso che non riesco neanche a resettarlo, non lo fa resettare, mi dà un errore. Casino. Quello non dipende da me, non dipende da loro. Buda, io lavoro l'ho fatto poi. Oh, anche se fa il reset profondo, mi sa, non lo sblocchi così. Qualcuno riesce, ho sentito, riesce che ce la fa, ma sono dei ladri professionisti, quelli che rubano telefoni. Si conferma, vabbè, ma io non sono ladro. No, vabbè, anche io li so resettare, non è quello, è che poi non mi fa resettare, mi dà un errore, non so cosa gli ha preso. Come si dice? In inglese, adesso, chi si ricorda. Anch'io sono inglese, porca miseria. Ce l'ho fatto studiare il francese a rimedio. Non c'è servito quasi a niente, dai. Via. Claudio. Ehi, già sono qua, dai, arrivo subito. Hola. Pochissime vatti saranno le prime, Già sono qua, fra, arrivo subito. Ehi, ragazza, siamo di 9. Attenzione Giulio, si ascolti Franco Gambio. Eccomi qua. Stavo facendo le test anch'io. Ho provato tutte le marce poco fa, invece la migliore, la prima, che ha degli ultimi picchi di modulazione rispetto alla sesta marcia. Sesta marcia non lo puoi mettere quello, fra, ti sattura la modulazione, massimo in quinta lo devi tenere. No, adesso è in sesta, però ripeto, ho abbassato molto i watt del baracchino, capito? Adesso non saturano. No, assolutamente, già va bene. No, prima, oppure se uso l'altro, che l'altro esce con parecchi watt, quello mi va in saturazione, anzi quello mi potrebbe rovinare anche qualcosa lì d'ingresso. Ma non credo, non lo so. casa, ho cambiato un nuovo radio, sto andando con Lino Itti, no, 294, com'è? Però sempre agganciato? Sì, sempre, adesso sono in prima marcia, neanche 200 watt. Ma è sempre qua, il segnale è sempre, sempre ottimo. No, sempre bene, Cla, no, nessun problema. Poco fa ho visto qualcuno stava cercando di sovramodularmi. La volta che ha provato Gianni? Non so chi era, c'avevo l'altra radio accesa io. Una volta ha provato Gianni, ha provato un test, ha fatto, dai. Ma l'ha detto anche in diretta poi, stava provando a vedere se passava, ma Gianni è vicino. Se metto in sesta vediamo se è vicino. No, non so, Gianni arriva qui, arriva fortissimo. E forse uno dei più. No, qualcun altro arriva forte anche. Come si chiama? Luca, a parte Luca del Monte, anche l'altro Luca, Luca Flippa, arriva fortissimo anche qua. Poi c'è un altro che arriva forte, Tore Squalo, che deve essere in zona, anche lui arriva fortissimo. Tutti lì sono attaccati, ma non si fanno le prove così, cosa. Siete tutti uno attaccato all'altro, però voglio fare la prova con Gianni, con la potenza sua e con la potenza mia da qua sua, se lo senti, se mi passa diretto oppure se lo ascolti male. Se ti disturba, se lo disturbi, no. Vediamo, Gianni, non c'è. No, adesso non c'è. Non è andato, non mi ricordo cosa ha detto. Qualcosa mi ha detto. Gappa, vabbè, io sono distante da te, non sono attaccato come lui, capito? Però già mi difendo abbastanza bene, ma non mi interessa a me fare le prove dentro Sassari. Dentro Sassari no, non è che ci siano molti scorsi a fare lo stesso, ma a me interessa che mi ascoltino in tutta la Sardegna. Io sto già un pezzo di filo, non mi cercate a me. Sei la massa di Nevaria, 6.9.30. T'aggiunto che tu arrivi, il più forte di tutti. Tu arrivi, quanto arriva Gianni attaccato con 300 watt? E si dice, la mazza. L'antenna è su 6 metri. Su 6 metri già, ti ho mandato il video anche. Più su di così, non si può. E poi un pezzo di filo, sicché non si può pretendere neanche chissà che. Vabbè, considerando che quella antenna autocostruita, ti posso garantire che il tuo segnale è quanto è quello di Marco Condor qua, che ce ne sono molto molto pochi. Stai usando la canna da pesca, Lu? Sempre. E allora siamo. Però se tu ce l'avevi sul tetto, io ce l'ho attaccata alla finestra, non va sopra il tetto, non sporge dal tetto. Vabbè. Contro la telestazionale però. Nulla, non risente niente. Guarda che è attaccata un palmo dal muro. Proprio, non so, ho beccato la taratura perfetta, deve essere, no, non dà nessun problema. Strano. Vabbè, con Rosmet, ma con l'analizzatore, stai tranquillo che è tutta un'altra musica con l'antenna lì. Vabbè, Fracchi, arrivo subito, che c'è roba nel fuoco. Capo, io parlo degli strumenti che ho io, dai. Ho provato dunque anche con l'analizzatore, quello il piccolino che ho io. Mi dà tutto buono, non lo so. Perché risentono degli ostacoli vicini, risentono. Io perché ho fatto un po' l'ascensore apposito per quando le costruisco? Per quel motivo lì. Risentano l'altezza, capito, ringhiere, muri, queste robe qua ne risento. Io con l'analizzatore le faccio con l'analizzatore proprio per quel motivo lì, per non avere questi problemi. Perché il rosometro ti può dare 1-1, ma sono gli altri che devi guardare i parametri. Beh, quando l'ho costruita questa non avevo l'analizzatore antenna. L'ho fatta rispettando certe misure che avevo preso da un progetto, dai. Però alla prima proprio va bene. Ho visto che poi c'è una banda larghissima, io vado dai 25 fino ai quasi ai 29. Sale sì di pochissimo di stazionare, è molto larga di banda. Quello sì. A 28 e 4 iniziano a salire, 28 e 4, 28 e 5 iniziano a salire. Poi dipende anche come ti è capitato, che a volte ti esce accordata in alto, a volte più in basso. Queste in genere sono tarate ai 27.500 per i DX, dai. No, io le taro dove voglio io. dove vuole il cliente Nettaro, centrobanda, canale 45, dove mi chiede lui io gliela porto, non è che io la taro centrobanda e poi lui la deve usare a 27500, capito? Anche se ci va lo stesso tranquillamente, però io la perfezione gliela do dove mi chiede lui. No, io parlo di questa, nello specifico di quel progetto, era tarata più o meno in quella banda, la frequenza lì, 27.5, però tagliando e cucendo a volte puoi sgradare qualcosa, quindi ti può uscire magari leggermente più alta o più bassa, dai, era quello che volevo dire. Allora, intanto il radiatore non si deve toccare, non devi stare a tagliare il radiatore, capito? Quello non lo devi toccare. Va bene, e poi Gianni, chi c'era? Gianni poi? Poi c'era, è entrato anche Luca Del Monte, poi c'era anche Claudio da Muros, ma io non lo sentivo, non so se ci sia ancora, boh. Purtroppo ho un QRM altissimo perché, ripeto, davanti ho una pompa di calore che è un palmo dalla bobina, dall'antenna, sicuramente mi becco tutte le scariche, dai, quando vai in funzione. Yes, che ho visto, facciamo roba al computer, per quello sono quasi, no? Aspettiamo che entri qualcuno, intanto rimango in ascolto, dai. Brecco. Avanti. Sì, ciao, vi stavo ascoltando adesso, ciao Luca e ciao Franco, non so se ci sia qualcun altro, ho ascoltato solo un attimino adesso. Sì, chiaro, beh. C'è anche Claudio che è in QRX, forse non ricordo male, fornirgli da qualcosa in cottura, se non sbaglio. È diventato coso casalingo Claudio, purtroppo c'è una moglie che ha avuto un intervento e sta cercando di sostituirla per le faccendine di casa. Dai. Ok, avanti Luca. Luca. Ciao Roberto. Beh, tutto a posto, niente in ordine. Tutto a posto, niente in ordine, allora. No, sto facendo roba al computer, capito? Ehi, ho visto quel telaio, bello quello che hai fatto. Di che moto era? Ti è piaciuto? Sì, ma di che moto era? Cos'è, un enduro? Sì, insomma, diciamo. Diciamo un enduro. Tipo Lambert. No, bello, mi piace, anche un bel effetto fa. Ma poi gli dai il prodotto sopra, trasparente, gli dai o che cosa? Trasparente per componente. Scusa, ho parlato sopra. L'hai fatto così a livello di prova o proprio effettivamente? No, è uscito bene. Adesso, infatti, glielo devo consegnare. Perché non sapeva cosa... Gli ho detto, vabbè, te la faccio a testa mia e poi gli ho mandato la foto, il video. Ma ha detto, bellissimo. Lasciala così, vabbè. Bello, scusa Fra, ti ho interrotto, avanti. No, non mi interessa questa cosa. Invece, come si chiama Wrap? Quella vernice che va data sopra, che la puoi anche puoi staccare. Cosa ne pensate voi? Funziona? Perché praticamente noi facciamo a volte un po' di fuoristrada per non rovinare la macchina, perché ho visto che c'è anche il trasparente di questa misura, di quella vernice lì. Aspetta, chiedo, non il controllo. Avanti Claudio, tu sei. Allora, di radio sei bassino, il segnale è quasi 9+15. La radio un po' bassina, c'è un residuo di alternata sotto. Chiediamo a loro, magari loro sono più lontani, se confermano il mio rapporto. Avanti. Qua no, oggi non lo sento io, che ho QRM forte. Avanti Luca, lì penso lo senti. Prova, Sì, aspettiamo un vicino, sono Gianni, dai, buonasera. Buona, e tu come mi ascolti? Ti ascolto bene, ma sei bassino con la radio, forse dovresti alzare un po' il volume della radio. Buona, va bene. Ascolta, ma la radio mia chiara è adesso. E allora sono avvicinata, che distorce la capita. Gianni, sei un po' saturo però, qua c'è quasi 9.35, 9.30 abbondante, però sta saturando la radio. Adesso non satura, ma è lontanata, no, proprio, vedi, è diverso. Avanti, prego. Gianni, fa una prova con Franco, a vedere, voglio vedere una cosa, visto che si è attaccato, che sei vicino a lui. Aspetta. Ah, mi senti, Fra? Stai rifiutando? Ehi. Che prova devo fare? Parlare, visto come fa, hai parlato sopra me, voglio fare una prova con Franco, io sono distante, tu sei attaccato. No, l'ho fatta su. Sento il fischio, però il segnale è più alto quello di Gianni. Fischio però lo senti? Sì, lo sento il fischio, sì. Ok, basta così, dai. No, perché lui è vicino a te e c'ha 300 watt, io sono molto più distante da te e ne ho 600. Ripeto, Gianni qui arriva forte, è uno dei più forti. Sì, perché è attaccato a te. Linea d'aria non sta neanche un chilometro, boh. Ma sono più vicino io, però vabbè, ho 5 watt qua, Però se attacco io, già non lo supero di brutto. Proviamo a farla con te la prova. Sono con... Da 1, 2, 3, provo, io sono... 5 watt. Allora, se parlate insieme si capisce poco e niente. No, con Luca ho detto, Luca qua passi tu, non Gianni. Ma Lucia... A me mi senti, Lu, mi senti? Sì, sì. Non si possono fare queste prove. Comunque, niente, da Franco non mi passa. Se sei attaccato, ma da Luca passo io, però, vedi. Attaccato, non sono attaccato, ma non sei attaccato, guarda, mi chiedi che sono attaccato e qui sono attaccato, guarda la differenza. Non vedi che sono attaccato quando non sono attaccato. Attaccato di casa, mi. Attaccato di casa, vicino a lui, la massa di Nevaria. Ah! Luca, io penso che saremo un chilometro linea d'aria, dai. Vabbè, siete attaccati, nel senso siete vicini, ma vedi, da Luca non passa Gianni, neanche attaccato. Luca è... io sono in un buco, vuol dire che lui proprio c'ha un canale verso di me. Beh, se sei attaccato non è che puoi fare prove dentro il sasso, no? Che cosa si muove i denti? Sono tutti lì vicino, però io nonostante sia lontano, attaccato ho pochi avversari, non è che tranne quelli del latte dolce che sono uno vicino all'altro, ma comunque in ogni caso do sempre fastidio, capito Fra? Perché il mio fischio lo senti. Sì, sì, anzi, secondo me se dovessi mettere l'antenna sul tetto, tu miglioreresti parecchio rispetto a lui, magari che lui è già vicino, c'è un bel segnale, ma tu magari si riuscirebbero a vedere le antenne. Beh, può darsi anche per quello, non so. È come Luca c'ha un segnalone qua. Perché quella di Luca magari la vedi l'antenna, lui ce l'ha sul tetto. Papà, te la ramana della potenza se vieni, ma volete come non è. Sono più forte io? Giovanni, Mulo. Ecco, ma non avete niente da fare, andate a giocare da un'altra parte. Udo, ti credo che ci vorrà chissà radio, che vai? Diamo la Zegri Band, dimmi le quante notte, sennò no, saturi di brutto qua. C'è due cose, c'è Nicola che stava chiedendo qualcosa, e più c'è Claudio Di Muros, facciamo parlare a loro, e più c'è anche Luca Flipper. Prima Nicola e poi Claudio Di Muros, avanti Nicola. Allora, da me sei 9 più 5 il tuo segnale, e la radio è 5. Vediamo Claudio, che è più o meno vicino a me, avanti Claudio. Sono ricoglionito. No, è a casa sua, no, ma stavo dicendo la torre di controllo, avanti Claudio. Santiago 5, radio non la sento, praticamente segnale non ti vedo e radio non ti sento. Vai Claudio Di Muros adesso a te, no, poco fa eri basso di radio, il segnale è sempre 9 più 15, la radio adesso è un po' più forte, ti ascolto bene, anche prima però c'era un po' di alternata sotto, ti sentivo un po' di disturbo, era troppo evidente, adesso come hai sollevato il mic è molto di meno, molto meno presente quel problema di sotto, di alternata. È poco veloce. Adesso stai andando bene, Claudio. Rispetto a prima, adesso stai andando bene. 35 pie. Luca Flipper. K-K. Luca Flipper poco fa era il più forte di tutti che mi arrivava. Buffone dice, Luca a me mi arriva 9 più 30 a pieno. E c'ha 10 watt di portante e 20 modulato. Praticamente c'ha il segnale di Gianni quando è attaccato. 9 più 30, la massa delle varie a te e all'antenna. E allora la devo passare. Si attacca al dipolo perché il codice è troppo forte. Anche qua mi sembra che Luca sia il più forte, il Flipper. Sto c'è un segnalone allucinante, ma io compreso io questo varco che ho nei suoi confronti, è allucinante. Avanti già. Magari anche qualche cosa ci attacca, non lo dice. Non ne ha nulla, no, se c'è 706 cosa attacca, non può attaccare linea rettino. È già potente come apparecchio quello, già è forse quello, vabbè, già la saluto, che fa? Già, questo è 706, come 720, che lineare il Bossubulino, che non ha giù lineare paghino, ma non ho mandato neanche a attaccare un lineare, sono 747, ma non lo posso attaccare qua, no, il vaso della radio, so. E qua va la radio. aspetta, aspetta un attimino e te lo dico, che guardo lo strumento. Sono 30, 25 anzi, l'importante. E 50 modulati. Adesso ti faccio l'esempio, Claudio adesso arriva dal porto di Già. Io sai con quanti battuto c'è adesso, con 5 watt. Ma non credo che tu sei con te qua, ma non credo che arrivi più fuori. Già, forse non hai capito, io bisogna che vi faccia lo spelling perché è un periodo che non mi capite. Io ti ho detto che quando sei attaccato, attaccato, con lineare attaccato, arrivi con lo stesso segnale suo, con la potenza solo della radio. Allora c'è qualche fatto, magari che fa favorevole per lui, capito? Quello ti sto dicendo, non mi capisci? È un segnalone, una cosa allucinante, mi arriva quanto è Marco Condor. E Marco è il più forte di tutti, liscio, e Marco non ha lineare. Marco a me mi arriva 9 più 30 liscio con 4 watt e 9,40 quando attacca. Con lo stesso segnale quasi di Antonello Alessio. Già va bene, già va bene. Facciamo parlare Muros, dai, avanti Muros. Adesso si è abbassato il segnale. Prova qua. Si è abbassato il segnale, Claudio, da me. Adesso sei 7, ma sei sceso a 4 un momento. Io non ho notato niente. Allora adesso ho commutato di nuovo al DAC, fra praticamente con la potenza del DAC. Ho 35 watt. Sempre bene, sempre bene, bella modulazione, sempre chiara, tranquilla. Cosa Luca mi come guardavo, 9.40 arriva. Caspita, un segnalone c'ha Luca davvero, eh. Io non, come ti arrivo Luca da te, Luca Flipper? Tu sei 9.45, quasi 50. Quindi sicuramente siamo, le antenne non dico, è impossibile che si vedano perché la mia è sotto un tetto, però è un bel canale abbiamo. Ma sono sempre vicino a Gianni tu? No, io sono qui, noi siamo le ferrovie, come si chiama? Via la Sicilia. Ah, avevo capito così, che eri vicino a Gianni. Linea d'aria, siamo un chilometro da lui, è alla fine via Valdetta. Ah, da te rimane all'inizio via Valdetta. Se conti che tu sei all'angolo di viale, perché so dove abiti, e lui è all'angolo lì cioè salendo di fronte a te, quindi non siete un chilometro, siete molto molto più vicini. Luca è più vicino a te. Luca Flip è più vicino, quindi è per quello che arriva fortissimo. Beh, Luca ce l'hai davanti proprio. Io non lo so dove abito. Non so, tu lo sai, quindi. Beh, è giusto così. No, va bene, va bene. No, commutati un valdacchio perché deve scaldare da tanto che non lo uso, dai. Avanti, Roberto, riprendi. È là che già si sente, già si fa sentire. Così non mi sfaccia la radio. Oh, va bene allora, dai. Adesso lo metto a 50 watt però, Vediamo un po'. Ora. 35. Ora, 50 watt. È la nuova bobina che gli ho messo, qua deve essere che gli piace di più. Quella funge. Aumentato la roba, esatto, lo so, se lo rimetto a 35. Prova a tornare indietro. Così sono a 35 watt, provo a fare a 50. 35 va un po' meglio, il segnale non cambia niente, 9.61 e 9.60 l'altro. Vabbè, siamo attaccati. Vabbè, lo lascio a 35, vai. Avanti, doppio rotto, fai girare. C'era Nicola, vediamo se è andato via. Nicola, ci sei ancora? Nicola, sento, basso. È strano pure, vabbè, io sono più vicino per lui, lui abita con le zone dei Cappuccini, per quanto ho capito, qua arrivava 9.95, quasi 9.10. La radio non è fortissima, però era chiara, dai. Ok, vediamo Muros, a me non Muros mi arriva a 9.15, quasi, dai, un pochettino più di 9.10. Avanti Claudio, le Muros. Vabbè, passare ti prendevi col mobiletto, se c'eri. Infatti, quando sono salito su, ci ho pensato, ho detto, se passa se lo porta via quella specie di tavolino, con la scrivania, quella che ti avevo accennato. Dai, salutalo, se lo vedi da parte mia, ricambia saluti. Avanti, doppio rumo a te. Sì, allora, scusate che era al telefono con Nicola. Cavalcava. E adesso vi prendo, va. E vabbè, dai, comunque è interessante sentirci qua. Dopo chi arriva più forte, chi arriva più debole, quello conta di meno. Interessante che si superi il segnale nuovo. Tutti quanti l'ho superato alla grande, non c'è neanche uno qua che arriva a meno di 9, almeno di quelli che che ascolto io, forse qualcuno giù di qualche paesotto, ma lontano, in zona, tutti quelli in zona, dal Ghero in su, tutti quanti arrivano oltre 9, almeno da parte mia. Sì, anche se arrivano 8 già si sentono uguali lo stesso. Io al Ghero...